30 secondi di silenzio. E mezz'ora di ritardo, anzi 32 minuti per l'esattezza. Non aveva pigiato il pulsante talk rosso. No. Ogni tanto anche il nostro buon vecchio Camicia si sbaglia. Molto più di quanto crediate. Ma è l'emozione perché oggi siamo sempre al castello, ma in una location un po' più rupestre. Dicelo te, gringo. Cioè, ora bisogna fare qui una descrizione per tutte le radioascoltatrici perché chiudete gli occhi. Dai, immaginate. Gringo, facci una fotografia dettagliata di questo momento. Allora, immaginate un posto immerso nel verde, tanti alberi, casette che si vedono in lontananza, il sole che comincia a andare giù piano piano, che inizia a essere meno forte e quindi ad essere gradevole. L'odore, c'è un odore particolare che si sente. Zampirone. Non mi sono il lavato. Gringo, ah, ecco, era, scusate. Era il buon Camicia che fa allontanare le zanzare. E poi una regia così nel verde, due musicisti che suonano questa bellissima, tre musicisti che suonano questa bellissima musica così chill out. Io flaga. Eh sì, perché oggi volevamo dedicarvi questa ultima diretta solo per questa stagione, poi chi lo sa, dal castello, ma dall'esterno del castello, da tutto il regno che circonda il castello. Dalla corte. Castello. E con tutti i valletti, i gioppini, i frequentatori, cioè il buco nero oggi si è allargato a bestia, ragazzi. Siamo qua in tantissimi. È un buco di luce oggi. Qua, io sì. Avrei voluto sedermi accanto qui, che c'è una maca. Avrei voluto fare la diretta sulla maca, ma non c'è stato il tempo di mettermi e di adagiarmi. E il reverendo se la ride alla regia che del bello. Mixer. E il reverendo, perché si è aperto un buco nero diretto da Frittole al castello, ragazzi. È incredibile. Tutti i personaggi di Frittole, quasi tutta, gran parte dei personaggi di Frittole del mercoledì o del venerdì o di quello che volete, tutti qua per noi oggi. Che bellezza, io sono commossa e mi viene quasi anche da piangere in questo momento. Voglio imprimermelo negli occhi, nella mente e nel cuore per sempre. È un momento veramente epico, ma non piangere, ti prego. No, non ora. Frena con la lacrimuccia che lo vedo la vedo dall'occhio sinistro che cade giù. Solo piango dal sinistro, no, mai dal destro. Non piangete dall'occhio destro, mi raccomando. Non si può, in questi momenti non si può. Il vero pianto di gioia è dall'occhio sinistro. E poi questa Dolby Surround, per cui abbiamo un basso e una chitarra che si scatenano davanti a noi, e dalle spalle le percussioni di Francesco Gherardi, uno degli ospiti di oggi, così per anticiparvi la bellezza del contenuto di questa serata. Esatto, e nulla, non ci resta che presentarci. O non ci resta che piangere. Non ci resta che piangere. Di gioia immensa. Decidiamo. Ma siamo la diretta dal castello come ogni lunedì, oggi in edizione speciale. Oggi in edizione festa. Edizione festa, alla regia il buon reverendo. Solo al mixer. Al mixer, il buon reverendo. Posso presentare te, gringo? Grazie. Sei il migliore per me. Il buon Beppi alla chitarra elettrica. Palmiro al basso. Grande Palmi. La dama che si presenta da sé, non ha bisogno di presentazioni, la dama. Assolutamente. E poi gli ospiti speciali. Il buon Camicia, dai. Buon Camicia oggi in versione a cazzo di cane. Bene, bene. Perché sto guardando Boris per questo. E gli ospiti speciali? C'è un po' di clip del buon gringo. E gli ospiti speciali? Abbiamo Lady Leavitt in tutta la sua corallosità. Guarda che corallo c'è intorno al collo, dall'Ecuador, brasiliano. Con la sua brasilianità, e oggi ci racconterà Funambole, uno spazio al femminile. E alle mie spalle, Pinguino e... Il buon Pinguino. In compagnia, esatto. E VM18, come ti possiamo chiamare? Qual è il codice, il nome in codice della... Trovate un nome in codice. Vane. La Vani, oltre alla Dani che fra un po' ci raggiungerà col suo audio, oggi abbiamo anche la Vani. E invece l'ospite d'onore alle tue spalle, buon Camicia. Francesco Gherardi. Ciao Franci. Benvenuto. Grazie per essere qui. Tra un po' faremo un po' di chiacchiere anche con lui. È davvero l'ultima per quest'estate, quindi abbiamo pensato di metterci comodi qui in corte, e musica dal vivo, è tutto assolutamente in diretta, se non ci credete scriveteci a Radio Contado in Siberia.net. Ma sì, perché comunque ovunque siamo la nostra è sempre Radio Contado, esatto, in Siberia.net. Anche frittole@gattini.ninja, cioè. Oggi è proprio l'unione di tante realtà. Secondo te se qui mi va in clip abbasso un po'. Esatto. Vai, almeno poi dopo nell'Audacity non dobbiamo togliere tutte le decibel necessari. E quindi abbiamo detto, vabbè, si fa questo, non si fa, perché comunque abbiamo festeggiato mercoledì scorso da Frittole già una finale di stagione, però poi abbiamo detto, ma che cazzo, visto che si fa le dirette da ben un mese anche qui al castello, ma facciamo dignitosamente una super festa che finirà chissà a che ora, già diciamo a Wombat, non sappiamo a che ora finiremo questa diretta. Grazie Mamma Wombat. Grazie Mamma Wombat. Noblogs.org. Anche per ascoltare la diretta, collegatevi a... wombat.noblogs.org. Sì, la M è in funzione, gringo? La M ancora non sono giunte novità. Ma mi sa c'è ancora. È lì che tace. Bene, bene, bene. E adesso farei sentire un po' di musica del nostro tappeto. Che dite? Vai, ci sta. Vai. It's a wonderful Monday. From the wrong chords to me. Pepper plane, the queen of my life, the reverend of my ride, get out of and the diamond there. The life from the castle, it's a wonderful morning. sun is going down and the wine is rising. Thank you, boy. Thank you, girls. Thank you, Liviet. Thank you, Barney. Thank you, the sun. Ma che voce ci sfodera oggi, Erkamicia. Anche un cantante dagli alberi. Chi era? Meraviglia. Beh, Napoleon Murphy Camicia. Sembrava quasi il Rozzo, ma in versione USA. Esatto. Bravo. Hai colto la citazione. Esatto, sì. Bene. The Rude. Rude Boys. Facciamo sentire un po' il rumore della natura, vai. C'è un gran bel cicalio. Cicaliccio. C'è il cicaliccio e la Livia subito ride quando dice qualcosa di malizioso. Cicaliccio. Lei di Liviet. C'è cicaliccio. E insomma, voi ci state ascoltando, oggi ne ascolterete delle belle. Vabbè, per essere molto bravi, quello che possiamo assicurare ai nostri radioascoltatori è che ci sarà sicuramente dell'ottima musica live. Su quello, poi sul resto, no, anche qualche contenuto interessante. Anche, esatto, tra un Aperi Wombat e un live ci saranno delle rubriche che noi cerchiamo di proporre a date alterne, tra cui appunto Funambole di Lady Liviet, che oggi sarà in puntata anche lei speciale, in diretta, perché normalmente ha fatto dei podcast bellissimi, grande ancora Lady Liviet, ne ha fatte due se non sbaglio, e oggi quindi è la sua terza rubrica. Inauguriamo questa rubrica di musica dal mondo, tanto il reverendo si trasforma, Palmiro si trasforma nei musicisti. Musica, che cos'è la musica? Come si chiama questa rubrica? Che cos'è la musica? Che cos'è la musica? Sembra un nome adatto a questo momento. Esatto, che cos'è la musica? E oggi scopriremo un po' che cos'è la musica indiana, che cos'è l'amour. Esatto. E poi ci sarà la grandiotica Dani, che speravamo di poter materializzare qui tra i pini. La Dani forse si concretizzerà fra i pini al castello ad agosto, quindi chissà che un'incursione con la Dani presente ad agosto non venga fatta. Chi lo sa. Teniamo aperto. Lasciamo in sospeso questa cosa. Dopodiché possiamo sempre fargli una telefonatina surprise. Vediamo. Intanto, visto che qui c'è davvero Francesco Franci, diamo le qualcosa prove. A me, perché a me non ci crede nessuno che sei qua. Vogliamo le prove. Sono qui. Ciao a tutti. Grande Nico. Nico non si sa chi è. Ma c'è solo Camicia. Nico l'abbiamo lasciato ad Alma. Sapere questa cosa, che la Wombat abbiamo tutti dei nomi in codice, così evitiamo che arrivi l'elicottero della Digos e ci porti via o meglio qualche drone. I droni. Lo possiamo raccontare forse, che siamo stati avvistati da un drone durante l'ultima assemblea della comunità di resistenza contadina Jérôme Larose. La comunità comincia a essere... Quindi forse sentirete parlare di noi, perché un drone ci ha registrato. Dopodiché, per assicurare il nostro ospite, il buon caro Nicco ha sempre tentato di far parte di questa regia, ma noi, avendo già Gringo, Camicia, Beppi, Reverendo, gli abbiamo sempre detto puppa Nicco, puppa. Esatto, c'è il Cami, o la Cami da seconda, a volte sono anche la Cami. Sì. Io sono Sha. Sha. Bello Camicia, perfetto. Abbiamo allora il buon Sha. E ma che si fa? Si comincia con Sha, cominciamo dopo quando abbiamo anche tutta la strumentazione pronta. O vogliamo subito cominciare con te? Vabbè, ma magari qualche chiacchiera il nostro Sha ce la potrebbe fare. Guarda, ti invito ad avvicinarti al microfono. Ci incuriosisce, perché ad esempio si sa che l'ignoranza della dama è universale, quindi potenzialmente mi scuso e mi inchino, ma io chi sia il Sha non lo so. Allora ti lascio a te le presentazioni. Mi raccomando, non deludere la dama. Allora... che vi porto qua? Un po' di musica indiana, intesa. Bisogna partire un po', secondo me, anche dall'aspetto un po' più polveroso, no? Che c'è su questa musica. parla di musiche dal mondo, no? Ma quindi, perché svegliamo un attimo intanto questo arcano mistero, sei indiano? No, sono... Perché qualcuno credeva qua... Toscano, di penso che... si possa sentire un po' dall'inflessione. Ma mi sembrava, però si sa, la davano è toscana, quindi si può anche sbagliare queste cose. È una migrazione, a mio modo, musicale, ok, negli ultimi 15-20 anni della mia vita. Ma un buon tempo, direi. Sì, un buon tempo che si spera continui, se ce lo concederanno. Devo imparare a muovermi di nuovo via terra, probabilmente, perché... Sarà dura, soprattutto in Afghanistan, perché bisogna passare di lì. Però diciamo che in tempi meno sospetti, già comunque mosso dalla musica, ispirato dalle musiche non solo occidentali, piano piano come percussionista mi sono iniziato ad aprire alle culture extraeuropee, ok? E in realtà volevo suonare lo sarb o tombak, che è uno strumento della musica persiana, ok? Persiana. Uno strumento della musica persiana che assomiglia, per visualizzare un po', sì, a un tamburo a calice, ovvero immaginati proprio un calice con l'odore del vino che sento adesso, di legno con una pelle di capra, perché le pelli di capra sono molto calde come suono, ok? Rispetto a quelle di plastica delle darbuche, sì, che qualcuno di noi già visualizza o ha avuto nelle mani. Tecniche bellissime, ci rimanevo affascinato dai musicisti persiani che suonano queste percussioni, perché veramente cioè, schiocchi di dita, una proprio fingering, si dice, una diteggiatura. Una manualità, una diteggiatura che non è nostra, diteggiatura. Sì, che mi affascinava molto, perché vengo dal pianoforte, da studi proprio, ero bambino, poi sono passato alle percussioni d'orchestra, che per la maggior parte si suonano invece con delle bacchette, sì, quindi c'hai una distanza tra la mano e lo strumento effettivamente, no? Invece queste percussioni, dal Nord Africa, poi fino in Turchia e poi le Medie Orientali, portavano questa possibilità. Quindi dalla passione per la batteria e tutto ciò che insomma diciamo di buono può essere stato fatto dall'evoluzione di ciò che erano i tamburi d'orchestra, sì, mi ha iniziato a affascinare più che l'aspetto della sonorità della batteria, era proprio questa tecnica delle dita. Ma io ho subito una domanda, no? Quando tu sei partito nell'esplorazione di quest'altra musica, no, diversa, partivi da pianista, ma eri già anche un po' percussionista. Ero già parecchio percussionista. Quindi eri già dirottato su comunque esplorare l'arte della percussione. Sì, sì, esattamente. Da una rottura col mondo classico, che tra l'altro mi vede con la nostra Lady Leavitt, studianti da bambini il solfeggio. Ma qua al castello anche la mia sorella, la mia famiglia, tra l'altro, un baci, sta riempendo di rossetto. Sì, siete quasi tutti marchiati dal rossetto di Lady Leavitt. Attenzione quando tornerete a casa delle vostre famiglie. Ma un'altra domanda allora subito, scusami se ti interrompo. Hai avuto 100.000 maestri o sei un autodidatta? Nel senso che andavi e osservavi? Tutte e due. Io devo i miei studi musicali a una insegnante che purtroppo ci ha lasciato per nefasti motivi, che è Ruth Pardo, bulgara, una pianista che mi ha subito mosso verso dei repertori anche dell'est Europa, e si vede mi ha dato un imprinting di un certo tipo. Ma anche autodidatta, nel senso nel percorso, soprattutto le prime coordinazioni delle mani e dei piedi me le studiavo sotto il banco facendo finta di dormire sul libro di latino. Però poi finita la situazione al liceo, prendevo la bici e andavo a quella che adesso era, quella che era la succursale del mio liceo, adesso è CPA. E a fare 10 minuti di batteria al giorno, perché sono mancino, ma lì c'erano tutti i desti e quindi non si poteva invertire. Questo... Hai accanto a te un altro gran mancino. Mancino, sì. Gli ambidestrismi, più ne ha più ne metta. Questa cosa mi ha seguito anche poi nella scoperta del tabla, che i tabla sono gli strumenti appunto indiani che descrivevi prima. Sì. Quindi, poi, no, questi... Al maschile e senza S. È al maschile senza S, esatto. Di solito sono conosciuti come le tablas, però possiamo appunto rimuovere questa cortina, i tabla, perché okay, i nomi finiscono in A, semplicemente sono maschili, e quelli finiscono in I sono femminili, okay, almeno in Hindi. Okay. Questa cosa è... Un po' di cultura generale che non fa mai male. Comunque il termine tabul è un un termine che accomuna tanti strumenti a percussione, appunto tutta l'area nordafricana, medio orientale, fino in India, anche un antenato nome del djembe, che è lo strumento di West Africa, è tabala. Quindi è una parola urdu che si è poi, attraverso le migrazioni e le conquiste, spostata, e anche in India ha assunto questo nome che è tabla, quindi sono gli strumenti a percussione del nord India. Quindi viaggiando, io sono partito la prima volta per l'India intorno a 20 anni con una combriccola che non posso menzionare, ma di amici eccezionali, compagnoni di viaggio. Sì, sì, ma sì. Tutti musicisti o l'interesse era tuo? C'è anche chi suonava, strimpellava, ai tempi poi si è affinato, ma principalmente era un viaggio di turismo, e però alla scoperta già di strumenti che avevo avuto modo di ascoltare. Quindi c'è stato un concerto in realtà alla FLOG, sì, al Festival dei Popoli, che mi ha cambiato proprio questo indirizzo che avevo verso il Tom Buck. Cioè, la sera prima c'era Shemirani Trio, che sono un padre e due figli, spettacolari percussionisti. Avevo inseguito uno di loro chiedendogli voglio imparare, e lui mi ha detto come to France, perché lui viveva a Nizza. Okay. A Nizza poi, paradossale, ci vive anche il mio attuale mentore da 12 anni, che è Nia Armeta, che saluto. Quindi la Francia è un altro Nizza, un altro punto focale, sì, del, sì, tuo percorso. Sì, sì, sì, perché la batteria pian piano l'ho abbandonata dagli studi che avevo anche con Piero Borri, che con cui ancora è bello fare delle jam insieme, mi ha dato tanti spunti, ma lui vedeva questo percorso verso i tabla come una cosa assolutamente da approfondire. Sì. Sì, sì. Mi ha stimolato tanto, e grazie. E, siamo arrivati ad un concerto di Zakir Hussain. Ustad Zakir Hussain è effettivamente una persona che si è distinta a livello mondiale per aver portato il tabla indiano tanto a noi in Occidente, attraverso tanti anni di insegnamento, ma anche tour mondiali di circa 40 anni, e questa cosa ci ha permesso a me avere un imprinting dal vivo molto forte, anche perché era una situazione che si è rivista poco. Era con sua moglie, che è italo-americana, Antonia Minnecola, che è ballerina di Katak. Katak, altro nome un po'. Altra parola, sì. Da non confondersi con Katakali, che molto spesso conosciamo, è un altro tipo di danza indiana. Il Katakali è una danza in cui ci si trucca, trucchi di 3-4 ore, dove sono solo uomini a fare tutti i ruoli della narrazione. È uno storytelling, ok? Una danza narrativa. Una danza narrativa. Danza teatro. La danza indiana è una danza teatro, molto bella. Ce ne sono circa 7 principali, più tante altre. E Katak invece, sempre a nord, è una derivazione sempre dalle conquiste Mogul, e anche ha, diciamo, assorbito le rotazioni, i famosi chakras, le rotazioni su se stessi, tipiche della tradizione Sufi. Però è interessante perché è una danza che permette l'utilizzo dei piedi nudi a terra per fare ritmo. Quindi io ho visto per la prima volta tabla e dei piedi con dei sonagli che vanno dalla caviglia fino al ginocchio. Io ce li ho. Ce li ha, i gungru. Li hanno portati dall'India. Ottimo, ci sono di vario tipo. Quelli del Katak sono molto grandi. Sono anche molto grandi, sì. Sì. E un buon suono. E fanno un gran suono, sì. E diciamo che mi ha subito affascinato una cosa: vedere come per la prima volta una ballerina e un percussionista interagivano su dei codici e con un linguaggio molto approfondito, cosa che non mi era ancora capitata di vedere. Questa cosa, ho detto no, voglio andare più in profondità. Voglio approfondire. E dalla superficie andare un po' più sotto, mi ci volevo 15 anni. Diciamo. Ecco, sì, sì, sì, sì. Perché proprio ti sei calato proprio nella cultura, sì. Ci voleva un po' di... Sì, la cultura non è così semplice. Necessita irrimediabilmente, immancabilmente del viaggio, della catarsi anche, oserei dire. Sono esperienze che uno non può arrivare a scegliersi perché ha disponibilità economica o non si possono pagare queste cose. Sono tutte cose che si manifestano perché effettivamente ti fai trovare predisposto e ti impegni. Ho trovato tanta disciplina in questa cosa e sono stato accolto. Ci sono stati vari buchi nell'acqua, nel senso... raccontacene uno, dai, il buco più nell'acqua, più quello che ti è rimasto più impresso, più saliente. Allora, ti posso, diciamo, raccontare quelle sono state le prime esperienze, perché ovviamente arrivi in India e come in molti paesi sei facilmente, no? ti riconoscono. Ti riconoscono, quindi se ti fai vedere predisposto a qualcosa di musicale, che spesso poi viene mischiato anche altre cose, ok? Pacchetto completo, no? Il guru indiano, poi cioè, magari ti portano anche un po' di sostanze, e quindi si è fatto noi la confusione di mettere tutto insieme anche. Invece tamra è uno strumento di musica classica, si chiama Shastriya Sangeet, sarebbe la musica colta, ok? L'esperienza che ho avuto a Pushkar era una dei primi momenti, e c'era praticamente non la situazione apparecchiata, c'era una sorta di music shop, ok, un negozio di musica che altro non è che un 4 metri per 4 full pieno di strumenti, con un signore sempre molto carino con la cocomerino della panza e i baffetti, che impartiva le lezioni direttamente suonando l'armonium e aveva gli allievi. E questa è stata un po' una situazione per me caotica, nel senso che in mezz'ora di lezione mi sembrava di aver ricevuto 2 anni di... Sono uscito la testa e mi girava. Però c'era stato un fatto che, tra questa iniziale confusione che non mi avevo orientato molto, ho avuto la fortuna di condividere questi momenti con un importante percussionista che poi che si chiama Itamar Doari, perché è israeliano, e in Israele è pieno in India di israeliani che dopo il servizio militare vanno a passare, cercano di alleggerire la loro mente, diciamo. Ok. E, per dirla in maniera sì, per dire, sono gentile. E fra questi c'era questo genio del tombak, che è Itamar Doari, che è diventato poi percussionista di Avishai Cohen, che nel jazz si è distinto molto come contrabbassista e compositore. Ai tempi lui aveva 21 anni e passavamo le giornate scambiandosi informazioni, quindi c'è ancora un taccuino di carta del Rajasthan con scritto. Prendevi appunti. Sì. E prendevo appunti scritti prima di sapere stare entrando in un mondo di tradizione orale, altamente, profondamente orale, che poi si lega alla memoria, a tutta una serie di aspetti proprio dell'essere, del respirare. Un culto. Sì, il culto della memoria. Sì, il culto della memoria con una guida, una strada che piano piano ti permette di percorrere un po' di... Sì, ragazzi, è d'obbligo, perché... un applauso. Grazie al reverendo e a Palmiro. Mi fate viaggiare. Un tappeto così, insomma, davvero, ragazzi. Un tappeto persiano. Un tappeto persiano. Voi interrompetemi ogni qualvolta, perché ispirato da questa musica stavo già volando. No, ti dico solo una cosa: se vuoi intanto volare verso una pista di atterraggio pratica in cui ci fai, certo, anche sentire, certo, quello di cui stai parlando, molto almeno volentieri. Esatto. Quando vuoi, un mix fra racconto e musica. Esatto. Molto volentieri, abbassiamo. Andiamo ora a posto. Allora ci prendiamo un attimo, un minutino per sistemare. Così, siamo entrati a gamba tesa e ci guadagniamo il primo, bello, primo live di tabla. Di musicale top. Sì, no, ragazzi, bellissimo davvero. Rive e Palmi, incredibili. Ascoltateli i venerdì, sempre su queste frequenze. Perché loro hanno deciso che non andranno in vacanza, loro... ma saranno con voi. A proposito di fino... India. Esatto. India, terra di Sant'Ignavi. Quindi ascoltateli assolutamente. Vabbè, magari se vogliono gli proporremo una volta di venire a fare un venerdì sera qua nel giardino. Ditemi quando riattacco il microfono, prendo intanto tempo. È bellissimo perché nel frattempo ci sono tantissime situazioni qua intorno a noi. Il sole finalmente è sceso oltre un albero e non mi stempia più il viso come poco fa, ma ragazzi, qua c'è una vista magnifica, è proprio una delle più belle dirette che Wombat ha fatto, mi sento di parlare anche per Wombat. Proviamo. Aspetta, queste sono le risate di Lady Liviet, se non aveste capito. Allora, prova tecnica. Sì, tra l'altro in questo momento ho cambiato proprio postura, cioè adesso sono a gambe incrociate, perché tabla è uno strumento, è una coppia di tamburi, per chi ci ascolta, che si suona a terra. Sono appoggiati su dei cuscinetti. Un tamburo è intonato, anzi ora vi darò una dimostrazione diretta di come si intona con un martello, perché di sottofondo ho messo questo suono. Ah, ecco, c'è un sottofondo, ma che cosa rappresenta? Questo, si deve immaginare, è un emulatore di tampura. Il tampura è uno strumento a corde simile a un sitar. Non è la tempura del giapponese. Non è la tempura, molto spesso ci starebbe anche bene, ma non è, non passa di lì. E è uno strumento a quattro corde che sta alla base vibrazionale di tutti i concerti di musica indiana. Quindi ha un'intonazione, in questo caso è un C sharp, ovvero un, quello che potrebbe assomigliare a un nostro Quindi può avere diesis, diverse intonazioni. Diverse intonazioni. Sì. Ti devi immaginare una persona che suona queste quattro corde a vuoto e crea questo bordone, che faccio passare tipo volante. È un insieme, senti l'insieme delle risonanze armoniche che crea questo suono continuo? Questo. Un'armonia infinita. E tu ti devi immaginare una persona che sta pizzicando quattro corde a vuoto, ma continuamente. Un basso continuo alla bassa. Una so- non modula. Sì, non modula. Procuriamo a Livet e a Palmiro per le loro domande un microfono, sennò i nostri radioascoltatori Ho chiesto a Sasha che cos'era un bordone. E gli ho chiesto se quella spiegazione che ho dato sull'armonia poteva essere simile a un basso continuo alla Bach. Non modula come magari puoi sentire le modulazioni della nostra classica, rimane a intonazione fissa e questo sta alla base proprio della musica monodica indiana, ok? Wow. Su cui si fonda poi tutta la struttura delle melodie, cioè dei raga, ok? Io direi di Grazie. Far sentire qualcosa. Bene. Questo è il suono del Dayan e questo invece è il suono dell'altro tamburo che invece è di metallo che dà le frequenze basse, ok? Che è modulabile a seconda della pressione che ci metti col polso. E poi una cosa che si sente solo dalla scatolina è un po' di talco che serve proprio per poter muovere far scivolare la base. Le mani. Esatto. E quello che vi posso far sentire sono alcune composizioni così molto brevi, ma che si basano su un ciclo che in India viene utilizzato per la maggiore, un ciclo ritmico che si chiama Tintal, di 16 tempi, ok? E la cosa interessante è che in India, come dicevo prima, è un sistema orale, quindi ci sono delle sillabe onomatopeiche, cioè che prendono il nome dai colpi su cui si suona il tabla, quindi a una sillaba corrisponde un colpo della mano destra, della sinistra o delle mani simultanee. Per esempio, ta, ghe, ka, tit, dinna, dere dere kitetak, ta tire kitetak, dinna kitetak. E così via. Il ciclo di Tintal recita così: da din din da, da din din da, da tin tin na, na din din da, da din din da, da din din da, da din din na, na din din da, da din din da, da din din da, da din din da, da din din da, da din din da, da. Questa è la base. Cioè, praticamente ci stai facendo scuola via radio, grazie. Non mi aspettavo tanto. In 16 tempi. Conti fino a 16. Praticamente gli indiani ti insegnano a contare su una mano fino a 16, usando proprio le divisioni delle falangi e la punta delle dita. Okay? Quindi se conti usando il pollice come vettore, sì, vedrai che hai per ogni dito 4 sezioni e quindi 4 dita per 4 hai 16 tempi. Ok. Okay. Partendo da qui. Puoi partire dalla base o dalla punta, molti maestri insegnano in un modo o nell'altro, l'importante è che siano 16, ok? Ok. Questa crea una griglia interessantissima di studio, ok? Su cui tu poi con la voce ci vai a posare le composizioni, la recitazione. Quindi si parte da delle sillabe per arrivare a delle frasi ritmiche e poi si potrebbe dire si arriva a dei poemi. Ma la cosa interessante, ve l'ho fatto fare anche a voi, perché in India il pubblico che ascolta è attivo, così. Partecipa. E quello che adesso è la dimostrazione più di tabla

Complimenti, davvero complimenti. Devo dire che uno non mi aspettavo così tanto ritmo. E anche complimenti ai ballerine, non riesco a immaginarmi dei ballerini che vanno a un ritmo così incalzante. Guarda, questo, e sostenuto, mi sarebbe bello vedere. Voglio ringraziare Rosella Fanelli che mi ha insegnato questa sequenza, è stata la mia mentore nella danza Katak, lei vive a Viterbo, e mi ha veramente trasmesso come l'hanno trasmesso a lei le famiglie di Lucknow, che è una città nell'Uttar Pradesh, e ho avuto modo poi di accompagnare anche i figli dei suoi maestri, e è un mondo veramente da scoprire. Davvero, e poi devo veramente confermare che tutto questo movimento di dita, che sembra quasi anche poetico, cioè che noi non ce l'immaginiamo, perché per noi la percussione è mano, non sì, è dita, mano, è tanto mano. E invece le tue dita si muovono in una maniera sorprendente, devo dire, veramente meravigliosa. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie davvero. C'era anche un altro aspetto però che era interessante secondo me da sottolineare, al di là di quello musicale, tutto è che in tutta questa tua carriera musicale però hai portato anche avanti tutta comunque anche un aspetto contadino nella tua vita, perché so che ti sei sempre occupato tanto di natura, hai vissuto e vivi comunque in comunità, in campagna, quindi... Vogliamo un attimo, ecco, dire, come le due cose vanno sempre insieme. È la radio contato che c'è dentro il camicia, sì, ma va benissimo. Sì. Poi guarda, qui in mezzo al campo non potevamo non sottolineare comunque come alla fine l'armonia che c'è nella musica indiana probabilmente hai dovuto ritrovarla anche assolutamente d'accordo, ciò che, nel di cui ti circondavi, no? Sì, ma guarda, le situazioni... come dire, non solo urbane o di concerti o di teatri sono quelle in cui si trova l'ispirazione, non solo per... Guarda, hai colto un aspetto importante, io ciò che ho portato più avanti negli anni in cui ho vissuto più a contatto con la natura è stata anche la possibilità di divulgare questa musica, creare delle situazioni che potessero portare i maestri qua, sono circa 15 anni che organizzo seminari, workshop di divulgazione, quindi situazioni con persone anche in convivenza che hanno saputo accogliere questa cosa, che è molto importante, perché hanno saputo accogliere questo aspetto qui, non solo quello di suonare, fare banda, no? Che è già molto bello, ma di accogliere anche quella che è l'ospitalità di questi artisti, perché per portarci la loro conoscenza c'è bisogno anche di creare delle piattaforme, e non è sempre come ci si immagina una situazione di workshop, no? Che si usano queste parole, ma... io ho trovato anche solo del piacere di stare insieme, piacere di stare convivialità insieme, esattamente, vera e propria, e poter avere delle situazioni che non sono l'appartamentino compresso ma più ampie, con degli spazi come quello che stiamo vivendo adesso, che permettono anche alla fantasia di immaginarsi situazioni conviviali, oppure house concert, abbiamo fatto tante belle situazioni, e si può accogliere queste culture con un senso di approfondimento a contatto con la natura che ispira anche loro. Infatti il centro di musica indiana, scusami, ci tengo a citarlo, si trova vicino tra Assisi e Gualdo-Tadino, Sarasvati House si chiama, diretta dal maestro Gianni Ricchizzi. È un luogo così, completamente nella natura, che ha una sala concerti e sotto ci sono i dormitori per gli allievi e studenti di musica indiana. Da circa 40 anni lui porta avanti questa cosa. E wow. Tutti i grandi maestri dell'India, o buona parte di essi, sono a contatto con lui, sono passati di là e tutti hanno tirato fuori il meglio grazie a questo contatto con la natura che si è creato. Bene, bene. Però... Beh, io volevo solo dire che ti sei un po' fregato con le tue parole, perché tu sei qua presente con una serie di persone che hanno contatti con la natura e che fanno parte di una comunità contadina. Quindi sappi che sarai il benvenuto in ogni luogo dove tu vorrai portare un po' di musica, ricreare questo spirito di convivialità che comunque già esiste nelle nostre comunità, e anche di formazione, perché è veramente molto interessante capire anche cosa ci sta dietro alla musica e una cultura che la trasmette. Un prossimo concerto? Prossimo concerto mercoledì. Bene. Posso dire dove? Certo, sì anzi. Presso Instabile, tra l'altro le salutiamo allora, tutte le organizzatrici dell'Instabile. Brave! Toccherà andare dopo l'assemblea, ragazzi, se qualcuno viene con me io ci vado. Sì, no, cioè, tra l'altro porterò Pino Basile, che è un compositore veramente forte, con cui ho avuto modo di collaborare a Cuneo per 2 anni, fa ambientazioni sonore, lui viene dalla Murgia, è pugliese, di Altamura, e porta degli strumenti particolari a un suo one man show in cui però mi ha coinvolto con tabla. E lui ha approfondito i linguaggi ritmici dell'India del sud, il cosiddetto Konnakol. Giustamente, dice lui, essendo del sud, ha detto, sì, esatto. E io quest'anno, l'ultimo viaggio, sono rientrato proprio in tempo e sono andato a approfondire ulteriormente questo linguaggio a Bangalore. E faremo quindi un'unione. Lui porta delle filastrocche pugliesi messe in ritmo, in sequenze ritmiche del sud. E io le recito con lui. Bello, beh, non mancheremo allora, mercoledì all'instabile. Sì. Mi sono compromesso ormai. Ci sarà modo anche di ascoltare una performance di tabla solo di circa 15-20 minuti che farò in duetto con un altro mio caro compagno di studi, che saluto, che è Fabio Chiari. Quindi il trip sarà assicurato. Bene. Allora, grazie ancora, Franci. Io mando un po' di musica che non c'entra nulla per staccare, così ci riassettiamo. Invito solo una cosa, che sennò mi scordo sempre perché non sono bravo a pubblicizzarmi. Però se qualcuno volesse avere un po' più di informazioni su questo e seguire le attività che si fanno, Matra Network è la pagina che ho dedicato a tutte le attività legate alla musica indiana e a proprio le unioni con le altre persone che anche in Italia sono appassionate e fanno concerti. Quindi seguire... c'è la pagina Facebook di Matra Network. Bene, grazie mille. A voi. Grazie, ed è già uno di noi perché anche noi siamo l'ala di Radio Wombat che si dimentica sempre di dare le coordinate. Ah, è tuo primo colorado con barba camburata, llena di ballena, inclinandosi al sol, ed un raio de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele alcohol. Persigue, entrégate a ella o dile que tienes dolor de cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor y cago el infierno. Adiós, adiós, inferno, inferno, verne, verne, verne, oh, verne, verne, oh. La la la, la la la, la la la. that's one, that's for sure. Funambule, spazio al femminile, intersezioni e condivisioni, tanta buona musica e stimolazioni multidisciplinari, fra storia, biografie, arti, scienze, culture, ecologie. Funambule! Che siamo live! Castello, anche Funambule. Ole! È la nostra Livietta. Quindi adesso devo prendere il rossetto, un attimo. Vabbè, diamo del tempo, c'è bisogno insomma anche di questa immedesimazione, di farsi bella, belle. Allora, voglio fare una mini presentazione, a parte vabbè, no, cominciamo dalle cose che dobbiamo cominciare. A parte voglio ringraziare ognuno. E però in particolare diciamo sono in debito con il mio amico in camicia che poi suonerà, perché diciamo mi sento in debito, nel senso che se sono qui alla fine c'è stato tutto un percorso folle in queste settimane, mesi, in cui ho capito che mi sono innamorata della radio, e quindi così volevo ringraziare tutte, tutti, tutto, ma in particolare lui. E poi niente, oggi sarà una cosa molto strettissima, giusto per salutarsi. Ho preparato due chicche, che è una roba molto diversa da quella che ho pensato di fare oggi, dopo la succosa puntata dell'altra volta in cui abbiamo parlato della donna vaginale e della donna clitoridea. Oggi andiamo verso nuove sponde, orizzonti, che sono un po' i miei orizzonti, ovvero quelli sudamericani. Ma mentre ti metti il rossetto ti faccio la prima domanda, Livet, ma sarà qualcosa collegato anche alla luna piena di ieri sera, questo momento luna particolare? Luna con penombra alle 5.09, oggi ultimo giorno di luna piena, cioè vabbè, anche voi mi invitate al castello in queste occasioni qui, io non so che cosa pensare. Comunque, scusate se sembro un trans brasiliana, ma onestamente sono senza voce, qualcuno mi dice non devo più parlare. E chi lo sa, magari la nostra Livietta è veramente un trans brasiliano. Non svegliamo no, allora, tutto. Io sono super etero e non ho voglia di cambiare sesso, però ogni tanto... Così. Allora, intanto devo dare le presentazioni, ho portato con me Miss Pirate, perché voi sapete che ognuna delle nostre eroine e mitiche donne del mondo leggendario e archetipo hanno la figura protettrice, come Atena, cioè la gufetta. Io Miss Pirate, e Miss Pirate è la mia piratessa che mi accompagna, è nata come mascotte sostituta di Fru Fru alle Frisbee Nights inoltrarno, e poi alla fine mi accompagna con me sempre, quindi è qui a Radio Wombat al castello. Ciao, sono Miss Pirate. Benissimo, lei è qui che ci accompagna, e quindi così, ecco, Miss Pirate. Oddio, è decapitata Miss Pirate. Comunque va bene, bando alle ciance, andiamo al succo. Allora, io comincerei dalla roba più succosa, la roba più politica, e ovviamente se pensiamo, come dire, alla forza delle rivoluzioni degli ultimi anni dell'America Latina, aiutami, dobbiamo soltanto partire dagli zapatisti e dalle zapatiste. E quindi ho preso questo libro in prestito da Mondeggi, che ringrazio Mondeggino, devo riportare, mi hanno odiato per averlo preso in prestito, però scusatemi, ho fatto questa follia. Si chiama Orsetta Bellani, lei è una ricercatrice di La Spezia dell'82, è una giornalista freelance, collabora con periodici di vari paesi, viaggiatrice da tutta la vita, dal 2009 gode dei paesaggi latinoamericani e scrive reportage. Si occupa soprattutto di movimenti sociali, diritti umani e della violenza che si vive in America Latina. Ha scritto un romanzo e alcuni racconti. Appoggia il movimento zapatista da quando ha messo piede in Chiapas. E lei è Orsetta Bellani, mi piace molto il suo nome, Orsetta. E ha scritto questo bellissimo libro per la fiaccola che si chiama Indios senza re, conversazioni con le zapatiste e le zapatiste, aggiungo io, su autonomia e resistenza, anche con un'intervista introduttiva a Raul Zibechi per la fiaccola, bellissima foto che non posso farvi vedere, ma a voi la faccio vedere. Ma noi interessa, Livietta, okay, noi interessa sapere perché hai scelto questo libro e come l'hai conosciuto. Cioè, allora, l'ho conosciuto a caso perché avevo pochissimo tempo, stavo per salire a Frittole, stavo per cadere dalla scala di Frittole e mi sono ritrovata Giovanni che mi ha mollato lì, ho detto fai così, fai cosa, è tutto così, è fatto, e io ho detto ops, cosa faccio adesso? Stavo nel panico più totale, dovevano venirmi a prendere, e quindi ho detto ok, devo trovare dei libri per appoggiarmi a delle cose su cose. Ho trovato questo libro mezzo abbandonato all'inizio di una camera, per questo poi sono arrabbiati, ma non importa, e ho sottratto questo libro per un anno secondo e poi è rimasto in zona Frittole, e ho scelto questo libro perché c'è un bellissimo indice che non vi leggerò perché non abbiamo il tempo, ma c'è un capitolo che è quello che io estrarrò, degli estratti succosissimi e importantissimi, che si chiama Clandestine tra i clandestini, ed è quello che ci interessa. Quindi andiamo al punto subito. Para todos todo, nada para nosotros, ovviamente. E adesso io comincerò leggendo queste poche righe della comandante Ramona. La comandante Ramona dice all'inizio delle clandestine tra i clandestini, citata dalla nostra cara Orsetta: ho dovuto lasciare il mio villaggio in cerca di lavoro, spinta dalla necessità, perché non c'era di che vivere. Una volta arrivata in città, mi sono accorta che lì la situazione della donna è diversa rispetto alla campagna. Mi sono resa conto che non è giusto che ci trattino così. Mi sono resa conto che ho iniziato a capire, a prendere coscienza del fatto che noi donne ci dobbiamo organizzare. Comandante Ramona, quindi diciamo che volevo leggervi un piccolo passaggio dove vengono, ecco questo, è forte ed ecco inciso, ma io ve lo leggo perché secondo me ci sta ed è importante. Diciamo, questo capitolo è diviso in altri sottocapitoli, una sorta di quasi tesi, diciamo così, che poi è stata pubblicata da Orsetta, che mi piace anche perché della mia generazione, sono dell'83 e dell'82. Diciamo che voglio fare solo questa minuscola introduzione, cioè gli zapatisti sono stati il segno per una generazione dell'immaginario prima dei post-global, no global, in global, cioè tutto quello che è stato il movimento dei movimenti prima di Genova 2001. E allora io penso che sia importante ripensare a quel momento attraverso gli occhi delle donne che hanno fatto lo zapatismo. E quindi volevo leggervi e condividere con voi questo breve scritto che Orsetta ci ritaglia attraverso le interviste che ha fatto alle donne in Chiapas, ma non solo in Chiapas, in tutte le zone di Caracol zapatisti, e dice, lo chiama così, la triplice oppressione. Donne, indigene e povere. E mi verrebbe da dire, già commentando, che indigene non esiste, esistono solo le autoctone. Indigena è già una parola colonizzata, perché l'indigeno viene dall'India, perché Cristoforo Colombo, pagato da Isabella di Castiglia, regina di Spagna, pensava di andare in India a colonizzare e a commerciare con l'India. Quindi gli indigeni, cioè i genii dell'India, cioè coloro che sono nati dalla genia indiana, non esistono, è già una parola colonizzante. Quindi noi dobbiamo dire donne, autoctone e povere. Questa è l'esatta nomenclatura. Quindi diciamo che lei inizia e dice: i diritti che le zapatiste rivendicano nella loro legge possono sembrarci scontati, ma forse non lo sarebbero stati per le nostre nonne, né lo sono per molte donne del pianeta. Per l'autoctone del Chiapas rappresentano una vera e propria rivoluzione. E qui cita alcune cose che dicono lì. Storicamente la condizione della popolazione autoctona in Chiapas è stata di esclusione. Le donne hanno vissuto una triplice oppressione per essere donne, per essere autoctone e per essere povere. Questo mi spiega Guadalupe Cardenas Zitle del collettivo femminista Mercedes Oliveira, COFE MO. La loro partecipazione politica è sempre stata invisibilizzata, ma con la legge rivoluzionaria delle donne la situazione è cambiata. Hanno iniziato ad andare alle manifestazioni, a prendere il microfono e a parlare, a ricoprire incarichi politici. Si è verificato un grande, grandissimo cambiamento di sensibilità in Chiapas, anche al di fuori del movimento zapatista. Gli uomini hanno iniziato a valorizzare le donne, perlomeno nei loro proclami. Ora non è politicamente corretto escludere la loro partecipazione, io aggiungo non più, perché diciamolo questo: il sessismo non ha colore, non ha etnia, il sessismo è o non è. E l'idea che il sessismo ha a che fare con un problema migrante o con un problema etnico o con un problema che riguarda il maschio alfa bianco che ha colonizzato senza che nessuno glielo chiedesse il resto del mondo espandendosi al di fuori dell'espansione europea è un fake. Il sessismo non ha colori, lo dico sempre, ma con questo non vuol dire che sia un arcobaleno, al contrario. E quindi questo, insomma, da quello che volevo citarvi, ci sono, la cosa va avanti. Mi sembra molto interessante questa questione della triplice colpa, no? Cioè, perché è una cosa che abbiamo già ritrovato in altre cose che vi ho letto in altre puntate, cioè è come se essere donne, nella condizione di essere donne, non sia sufficiente, no? Quindi dobbiamo dire anche che siamo autoctone, dobbiamo dire anche che siamo povere, quindi il programma è anche di classe, il programma è anche originario e tutto il resto. Io vorrei un po', appunto, qua dentro Funambole, spazio femminile, focalizzarmi su quello che è la condizione della donna, la simbologia del femminile, l'arcaico del femminile. E questo mi viene anche dal lavoro di tanti collettivi politici femministi che vedono persone e personaggi differenti, soggettività antipatriarcali di tutti i tipi, che molto spesso hanno grande preparazione o non ne hanno per niente e mi richiedono bibliografie, cose, ho capito che c'è un gap e quindi stiamo cercando di dare delle minuscole stimolazioni che portino poi le persone a interessarsi, ad avere una loro possibilità di approfondimento. E procediamo. Quindi stai dicendo che c'è una volontà, no, di avere uno sguardo al femminile, di fare una lotta, però c'è un grande gap culturale, nel senso che comunque c'è una bibliografia, ci sono dei libri eccetera, ma non sono conosciuti. Allora, diciamo che io sono una donna, parto da me, perché quello che ho imparato dal femminismo è posizionarmi. Io mi posiziono, sono donna, ho studiato per tutta la vita, quando sono all'asilo, la storia dell'uomo, la storia degli uomini, e io non vengo mai rappresentata, a meno che io non sia la regina Elisabetta I, Isabella di Castiglia o roba del genere. Non ho neanche una papessa a cui fare riferimento. Bene, chiaro, al massimo posso fare riferimento alla Pizia di Delfi. In tutto questo vuoto semantico, semiotico e leggendario, mitologico, io penso che essere donna ha un senso se io posso vivere donna a 360 gradi, senza freni, senza limiti, nell'essere totalmente selvaggia, nell'essere totalmente formale, nel scegliere tutto quello che voglio, nel farmi girare le ovaie tutte le volte che voglio, nel fregarmene, nell'imparare a stare da sola, essere autonoma economicamente ed essere libera di poter abortire e fare figli al di là di tutto quello che io ho la forza. La contemporaneità, che cos'è la virilità? Quando io posso usare un vibratore e farmi inseminare artificialmente, cosa me ne faccio di un uomo se non ne vale la pena? Quindi in questa situazione qua essere donna ha una potenza enorme, perché il patriarcato nasce da un matriarcato in cui l'uomo ha avuto paura del fatto di non potersi riprodurre, di potersi riprodurre fisicamente e biologicamente. Ci sono le cose arcaiche che sono molto più arcaiche. Il patriarcato è molto più antico del capitalismo. Il capitalismo è l'ultima puntina di iceberg di una roba millenaria chiamata patriarcato. Quindi questo volevo dire per rispondere alla tua domanda, che questo assolutamente dobbiamo sempre solo stare attenti in quanto donne a non volere e non pretendere il potere degli uomini. Io in quanto donna voglio non essere potente, voglio essere solo me stessa e fare la mia vita e avere il mio influsso positivo, accogliente, generico, come lo vorrei che lo avessero gli uomini, come lo vorrei che lo avessero tutti gli esseri viventi su questa terra, che vada al di là delle logiche di potere, che secondo me sono molto poi legate, come dici te, al patriarcato e al capitalismo. Quindi l'importante credo che in quanto donne non aspiriamo a copiare il potere o l'elevatezza o tutti gli standard che ci sono dietro alla figura maschile così come ci viene imposta. Tanto è vero che ci sono delle donne molto più con un lato maschile accentuato, che sono quelle che vogliono dominare, sono quelle che non hanno la sensibilità rispetto le donne agli alfa altri. Le donne alfa, ecco, che non ci siano donne alfa come, così come non ci vorrei che ci fossero uomini alfa, cioè siamo tutti su uno stesso livello, uomini, donne, di qualsiasi tendenza sessuale o meno, dovremmo essere tutti su uno stesso livello in questo mondo. Allora, sono d'accordissimo con te, voglio solo fare una specificazione linguistica. La questione del potere è una questione molto dibattuta all'interno del femminismo. Cito solo Judith Butler, che è una delle più famose, che ha scritto Etica della responsabilità del potere. E, insomma, lei è una delle fondatrici del transfemminismo, fa riferimento a Berkeley come Donna Haraway e ovviamente si contrappone alle francesi e alle italiane che appartengono al femminismo storico della differenza. Questo solo per dare una minima di contestualizzazione. Io penso questo, mia cara dama, che la potenza non è il potere, cioè io penso che la donna è potente tanto quanto l'uomo è potente nella loro differenza e ogni persona, ogni essere umano, ogni animale, ogni essere vivente ha una sua potenza, quasi in termini aristotelico, no? Io in potenza dal semino, dall'embrione che sono, io posso sviluppare qualcosa, posso aspirare a una vocazione, ok? E svilupparmi. Differenza è su questo del potere, quando il potere è sopraffazione politica, quando il potere è controllo sull'altra, sull'altro, allora quello è un problema e va discusso. Ma io concordo che la potenza nella nostra accezione, per come la vivo io, la chiamerei umiltà. L'umiltà è la bellissimo. Più grande delle potenze. Chiamiamola come vogliamo. E allora, a questo punto io procederei verso l'altro testo, che ovviamente fa sempre parte del mondo sudamericano. E lei è la mitica Gioconda Belli, che tutti conoscerete. 1948, è nata in Nicaragua, giornalista, poetessa, scrittrice di fama internazionale, ha partecipato attivamente alla lotta del fronte sandinista contro la dittatura di Somoza, cioè ha fatto la rivoluzione in Nicaragua. Con L'infinito palmo della mano, edito da Feltrinelli in Italia già dal 2009, ha vinto il premio Biblioteca Breve 2008, sempre con la Feltrinelli, ha pubblicato vari libri, tra cui Nel paese delle donne del 2011, premio La Orta Odilla 2010 e L'intenso calore della luna 2015. Io volevo così consigliarvi Nel paese delle donne, molto bello. Il calo della libido da parte degli uomini fu la prova concreta che qualcosa di anomalo stava accadendo. Questa è dalla quarta di copertina, è un romanzo bellissimo. Ho scelto un piccolo pezzo che io adesso vi dedicherò e vi leggerò, perché secondo me, anche se non si capisce niente perché è un minuscolo pezzo, un frammento di un romanzo molto più complesso, però tocca alcuni punti che ci interessano per quanto riguarda le lotte di cui ho iniziato a parlare, su quello che è l'immaginario, no? Che la potenza di una lotta, per esempio, come parlavamo prima, quella zapatista può dare. E quindi è comunque un pezzo che ti ha colpito particolarmente, sì. Quindi sarà sicuramente ricco, sì, di spunti. E fa così, ha un dialogo e dice: ma non mi dire, e l'altra risponde: certo, è un paradosso, spirito di contraddizione. Forse sono sempre innamorato del XX secolo, delle rivoluzioni, delle grandi utopie. Erano bei tempi quelli in cui ci si fidava alla cieca. Ora invece, se lo fai, ti guardano storto. Prendi la letteratura. Oggi nei romanzi scetticismo e ironia sono il pane quotidiano. Gli scrittori latinoamericani del boom, che un tempo hanno scosso il mondo, adesso ridono di quello che erano allora. Non li biasimo. Le bastonate fanno male, molto male. Io non mi lascio conquistare da questa moda del cinismo, anche se devo confessarti che sono scettico. A questo punto direi che sono uno scettico costantemente in cerca di una ragione per non esserlo. Di tanto in tanto la trovo. Quello che mi hai raccontato è bello, per esempio, proprio ciò che mi piace, non sono un tipo pratico, vado bene per pensare e per lanciare idee. La cosa migliore che ho fatto è stato aprire un think tank a Washington. Lì trascorro la maggior parte del mio tempo. Ho impiegato anni per guadagnarmi una reputazione come conoscitore della regione, ma il mio impegno ha dato i suoi frutti. Ora le mie opinioni vengono citate nei report dei mezzi di comunicazione degli economisti e questo mi fa sentire utile. Ultimamente però mi devo occupare anche anche d'affari. Mio padre è morto e mi ha lasciato dei pozzi di petrolio a Maracaibo e alcune aziende agricole in Uruguay e in Patagonia. Un patrimonio, insomma. Adesso molta gente dipende da me e quindi devo assumermi questi impegni. Non mi occupo dell'amministrazione, ma della supervisione. Aumento il capitale e ogni tanto lo utilizzo per fare Don Quixote. Così lavo la mia colpa. Lavo la mia colpa. Dove pensi di stare? A Montevideo? Al Plaza, in centro, pagano i cinesi. L'hanno appena rinnovato, non voglio sembrarti insolente, ma la mia casa ha molte stanze. Sai, sono vedova, disse Viviana, e lui rispose, io sono divorziato. Grazie, la geniale Gioconda Belli. Niente, io volevo chiudere pensando che in questo momento volevo portare il mio pensiero alla mia terra, una delle mie terre natalis brasiliane. Ci sono tantissime femministe in questo momento impegnate, la situazione è molto peggiore di quella degli Stati Uniti, non ne sta parlando assolutamente nessuno, le guerriglie in strada sono violentissime, sta morendo minimo 1000 persone al giorno tra delirio sanitario e delirio politico. C'è un presidente a livello federale che non riconosce la presenza del virus e che chiama alle armi la gente sotto il Parlamento brasiliano, che non ha più valore. La situazione è orribile. È orribile anche in Iran e non ne parla un cazzo di nessuno, scusate il francesismo. E niente di nuovo sul fronte occidentale, ma la novità è che noi ce ne accorgiamo e che noi non staremo in silenzio. E voglio ricordare Marielle Franco per tutto quello che ha fatto, e ricordo che uno dei tre figli in Parlamento del nostro, mio no, presidente del Brasile, io non l'ho votato, non lo voterò mai e non me lo riconoscerò mai, è stato dentro all'inchiesta su chi sono i mandanti che hanno mandato a uccidere Marielle Franco, impegnata nelle favelas di Rio per difendere persone che non hanno la casa, non hanno una fogna, non hanno diritto alla vita, perché si era messa contro le milizie dei paramilitari, e lei è stata ammazzata in quanto donna, in quanto lesbica, in quanto attivista, in quanto dentro al Parlamento della città. E questa cosa noi del 14 marzo non ce lo dimenticheremo, perché è quello che è successo 3 anni fa e noi non ce lo dimenticheremo. Quindi io voglio portare un attimo con voi, tutte voi che ci state ascoltando, il pensiero al Brasile, al fatto che c'è un eccidio in corso, stanno ammazzando milioni di persone, di autoctoni nelle Amazzonie. Non lo sta dicendo nessuno perché non ci sono i giornalisti, ma questo va detto: l'Amazzonia la stanno distruggendo e noi non possiamo stare in silenzio, perché l'Amazzonia fa parte della nostra madre terra. Ed è, non è vero quello che viene detto dal presidente a Davos, che dice che l'Amazzonia non è di tutti ma è solo del Brasile, è falso, ricordiamocelo sempre, e cerchiamo di tenere alto il nostro livello dell'ascolto di quello che succede nel mondo e non solo del mainstream. Solo due cose. Una, se qualcuno ha voglia di sentire delle voci locali dal Brasile, visto che Livet ci riporta su questa tematica, su Facebook o anche sul sito, basta digitare Progetto Luar, è in corso un progetto, insomma, che lavora in Brasile da anni e in questo momento sta cercando di fare, cioè di dare un po' voce a quello che sta accadendo. Quindi se siete interessati, digitate Progetto Luar e avrete un po' di informazioni. E poi abbiamo una delle nostre ospiti d'onore che ci voleva cantare una canzone a cappello. E approfitto velocissimo dicendo insieme alla dama che ci sono tantissimi collettivi femministi a Salvador di Bahia, a Rio, a San Paolo, che non sono neanche in contatto tra loro perché le comunicazioni fanno schifo, perché in questo momento ci sono 4 polizie collegate all'esercito che sparano dagli elicotteri in cima alle favelas, ma loro resistono, continuano a fare educativa di strada, continuano a fare educazione per le bambine e per i bambini di genere, e fanno tantissime cose. Quindi basta informarsi, andare sui loro blog, sulle loro pagine Facebook e scoprirete un mondo, e se avete bisogno di tradurlo ve lo traduco io. Ma ci puoi dare qualche nome così per facilitare la ricerca? No, non voglio dare nessun nome perché non potrei rappresentare la complessità della mappa brasiliana. Nome nel senso di pagine Facebook. Cercate Femminismi Brasile, Femminismo Brasil, Brasil Femminismo con una M sola, e troverete un mondo. Grazie, allora questa Grazie canzone che dedicano al Brasile e a te, Livia, l'ascoltiamo. Tristeza não tem fim, feliz. cidade sim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirado jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim, tristeza não tem fim. Felicidade sim. Ai, felicidade como é a gota que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores das cores e todas das cores, dez ninhos do passarinhos, tudo isso ela tem. É dessa delicada como é o dia, e merecia do medo de amar. Tristeza não tem fim. Felicidade sim, tristeza não tem fim. Felicidade sim. Graças, Brasil. Obrigada. Obrigada a vocês. Musica, musica per le mie orecchie. Grazie, grazie alle donne presenti. E a tutte le soggettività antipatriarcali. Ma anche a tutti i lati femminili che ci sono qua in questa serata. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone, filo d'incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco, e già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta, ah, era vero, la gola soddisfatta e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco a poco. Si fa così e tutto appare chiaro per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente, dolce, dolcissimo e sconveniente, quei bei peccati succede sempre. Siamo di nuovo in diretta dal castello, siamo veramente tutti molto emozionati per questo live, gente che si propone a caso, quindi se qualcuno passa di qua e vuole unirsi, ben venga. E siamo per rimanere oggi il castello è veramente proprio open, free, insomma. Io, Gringo, non so cosa tu ne pensi, ma vorrei... fosse, non dico tutti i giorni perché magari c'è un po' impegnativo, ma anche tutti i giorni. Però molto molto spesso così, quindi rinnovo l'invito a tutte le persone che sono qua. C'è il pinguino che ci vuole dire qualcosa. Dico che questa atmosfera commovente mi ispira sotto il punto di vista culinario, per cui vado a cucinare cose. Bello pinguino, ci siamo impegnati per non farti cucinare stasera. Io ho l'insalata di patate e fagiolini, steak, pinguino che non ne hai idea. Tutto materiale tuo e cucina anche gli altri, dai, ci siamo un po' impegnati per gravarti. Quindi io preferirei che tu rimanessi fra noi, perché ci piace che tu rimanga qua. Comunque, a tua fantasia. E per continuare sul mood femminile, io vorrei dare voce a una gran voce bergamasca che ci ha accompagnato in queste dirette dal lunedì. È giunta l'ora della Dani. Speriamo che ci ascolti in questa diretta commovente, però non lo so, vediamo. Merlino, anche Vivin Q rientra fresco fresco di vacanza. Ho deciso di prendermi una piccola pausa pasquale e andarmene un po' a zonzo con Il favore delle tenebre. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. In questo modo mi sono detta non dovrei incontrare nessun vigile, che nella mia testa più o meno sono omoni giganti e barbuti che al grido di tu non puoi passare estraggono paletta e libretto delle multe. Comunque, dicevo, mi sono fatta un bel giro virtuale attorno al mondo alla scoperta delle tradizioni pasquali e guardate un po', ho scoperto che non sono solo fatte di grigliate e piatti gustosi. Non mi credete? Ecco, vi ho portato alcune cartoline. Partiamo dall'America Latina, nota per la vivacità dei suoi colori accesi. Qui la tradizione vuole che piccole comunità si riuniscano attorno ai cascarones, uova decorate riempite di coriandoli e dolcetti che adulti e bambini rompono sulla testa degli amici. Sì, Poi, dopo qualche birra, si tenta di rompere direttamente la testa. Dato che siamo in zona, mi sono spostata alla Casa Bianca, a Washington per la precisione. Qui ogni anno si svolge l'Easter Egg Roll, una vera e propria gara in cui vengono fatte rotolare le uova colorate col solo uso di un cucchiaio. Il fortunato vincitore avrà in regalo un ovetto autografato dal presidente in persona. Un minuto di silenzio per il fortunato vincitore. Cambiamo rotta, il nostro timone gira e ci troviamo in Irlanda, dove a stupire non è tanto la tradizionale sepoltura delle aringhe, quanto la chiusura dei pub. Ma perché hai bruciato il rum? Esatto. Ma vogliamo parlare delle tradizioni inglesi? Non sono meno bizzarre. Una di queste prevede che si raccolgano dei rami di salice e con questi ci si sfiori reciprocamente come augurio di buona fortuna. Io, per paura di vedere Boris Johnson che mi propone un tête-à-tête con un rametto in mano, in stile Mr. Grey, me la sono filata in Polonia. Qui la tradizione vuole che il lunedì dell'angelo si svolga lo Smingus Dingus, che no, non è un nuovo gioco erotico, ma è il giorno dei gavettoni d'acqua, una vera e propria battaglia a colpi di secchiate d'acqua per la strada, che poi chissà perché tutta sta allegria non la mettono nel cinema sti polacchi. Faccio un altro passo e mi ritrovo nelle Filippine, dove è usanza, al rintocco delle campane pasquali, sollevare i neonati dalla testa. Questo servirebbe ad assicurare loro una statura elevata. Già, e poi come ultimo giro, dato che è ora di rientrare, decido di affacciarmi in Bulgaria. Qui scopro che la vera protagonista è la battaglia delle uova. La leggenda vuole che colui il cui uovo, una volta scagliato, non si rompa, goda di limitato successo in tutte le attività che intraprenderà. La leggenda inoltre vuole che Eva Enger abbia partecipato sotto mentite spoglie e detenga tuttora il record. Bene amici, il nostro tour virtuale è giunto al termine. È vero che ci hanno allungato le restrizioni, ma forse, anziché guardare nostalgicamente la luce verde al di là della sponda come il grande Gatsby, la possiamo raggiungere. E sapete perché? Perché la fantasia non ha bisogno di autocertificazioni. Ho imparato a sognare, quando inizi a scoprire, più il sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni, oltre muri e confini. Ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Wombat.noblogs.org. Gringo, ce la rifai un po' più canticchiata? Wombat.noblogs.org. Ne approfitto. Wombat. Noblogs.org. approfitto perché so che hai una bellissima voce. E le sonorità questa sera si confondono. Ma vogliamo descrivere quali sono le sonorità? Perché c'è un mix di tutto quello che voi avete sentito finora. Al tabla, Francesco Gherardi. Al basso, il Reverendo. Reverendo. Alla chitarra, le voci, Vanessa, Vanessa. Soddisfatta. Il castello stasera regala emozioni infinite. La bellezza della natura. Devo dire che come dama di questo castello sono proprio soddisfatta. Ascoltiamo un pochino, ascoltatela per favore. Mi richiede ascolto. Intorno a noi, e tutto quanto intorno a noi, ci richiede ascolto, e ci richiede ascolto, e questo Covid-19 non è altro che una richiesta di ascolto. Abbiamo dentro l'universo, se respiriamo l'universo, abbiamo dentro l'universo, è dentro noi l'universo, ci crediamo l'universo, ci crediamo l'universo, è dentro noi l'universo. Meraviglia inaudita. Invece è bellissimo. Beh, è perfetto. Davvero. Il finale in maggiore era la cosa che più E poi con quest'eco, cioè con il super Bepi e al mixer, ragazzi, ma che momenti, non vedo l'ora di riascoltarli, Gringo. Esatto, anch'io ringraziamo tutti i nostri musicisti di stasera che veramente ci regalano emozioni. Comunque adesso grazie a voi. Non perché siamo al castello, però dovremmo spammare a mille questa puntata, perché secondo me è una delle più gloriose. Nulla togliere Radio Contado, nulla togliere a Frittole, nulla togliere a nessuno, ma la dama del castello si gongola un po' in questa cosa. Ha detto, diciamo, ci tocca ringraziare Frittole proprio per la strumentazione, per i musicisti. No, no, ma io mi gongolo per la location, perché siete tutti qua e perché vi abbiamo trasportati col buco nero. Ovviamente da Frittole, ogni qualvolta vorrete trasportarci nel vostro buco nero, noi ci saremo. Doveroso. Raccogliamo l'invito. Grazie, grazie, dama. Anch'io stanotte sarò commosso. Piangeremo insieme. E allora partiamo con una carrellata di impressioni. Una carrellata di impressioni e di salute. Comincia te, Reve. È stato bellissimo, mi sono sentita molto bene, molto, molto assolata, ma anche all'ombra. E poi c'è questa fila di cipressi che non ho capito perché sia stata piantata in questo modo in salita. Non so se l'avete notata, però insalubre. Ma perché alla fine di questa fila di cipressi ci sarebbe anche un cancello. Probabilmente era una vecchissima strada che non so. Comunque vi voglio tanto bene, anche vi ringrazio. Noi. Grazie Castello. Love, love, benissimo, grazie, andiamo avanti. Francesco, dai, impressioni, saluti e tutto. Impressioni bellissime. Qua. Settembre. I colori di questa radio sono cambiati da quando ci ho messo piede fino adesso, e questa è una cosa bellissima. E vi ho conosciuto un po' di più, vi ho ascoltato, ci siamo ascoltati, abbiamo suonato insieme, quindi un'impressione, grazie a Radio Wombat in generale, grazie a tutti, e spero di aver introdotto qualcosa di interessante anche sulla musica indiana. Non è l'unica musica che seguo e che suono, se avrete piacere potremmo parlare anche di musica del West Africa, visto che a Firenze abbiamo anche... sì, con i tamburi bassi, diciamo, punk hardcore... E etnie gherè della Costa d'Avorio possono andare d'accordo. Vabbè, al castello tutte le volte che vuoi, se vuoi già programmiamo la prossima stagione da settembre fino a quando vorrai tu. Per sempre, palmi, cosa ci dici? Palmi, ci hai deliziato con la tua musica, ma vogliamo sentire anche quella che esce dalla tua voce, dalla tua gola. Scusate, mi ero un attimo decontestualizzato dall'argomento, quindi forse dovrete un attimo rispiegarmi le ultime fila del discorso. Stiamo semplicemente chiedendo un saluto finale e un'impressione a caldo di questa giornata. Una giornata molto intensa, è stata una cosa, diciamo, fatta molto di corsa, come piacciono a me. Siamo arrivati qui all'ultimo, abbiamo sforato il record della mezz'ora montando tutto lo studio all'aperto, e è stata una cosa molto eccitante, è stata una cosa molto concitata. Abbiamo visto finalmente il castello, io e il mio compagno reverendo, se non che maestro di mixer. È stata veramente, come ultima puntata, è stata veramente bella. Non mi aspettavo che sarebbe stata l'insegna della musica, della più variegata, tra l'altro, insieme a Ghera, appunto. Complimenti, applausi. E che posso dire altro? Posso solo divagare a questo punto. Grazie per la tua musica, noi diciamo questo. Forse non ce l'aspettavamo anche noi. Passa il microfono. Posso fare un saluto? Bene, arriverà anche te, Lady Libet. Ti sto tenendo in caldo per dopo, resisti? Niente, io sono molto contenta di essere capitata qui stasera e in mezzo a questo, appunto, gigaleccio di cicale, cipresso, questa campagna meravigliosa. E volevo solamente dirvi una cosa. Mi raccomando, ragazzi, coraggio. Coraggio, forza, il respiro è importante, che è il vostro unico e profondo alleato, e mantenere la frequenza di energia altissima, perché c'è tanta materia pesante intorno, tanta materia grezza che sta tentando varie cose, varie strategie, però è importante mantenere la frequenza di energia alta, in pace, amore, serenità e sempre con la vostra benedizione a fine serata. Ciao. E hai tutto, hai la nostra energia e la nostra benedizione. Dai, Libet, passiamo avanti, la palla al pinguino. Pinguino. Pinguino, cosa ci dici? Diciamo che stasera per il pinguino si è sentito un'aquila, ha volato, e dunque è stato veramente bello. Niente, è tutto spontaneo, naturale, per cui veramente come dovrebbe essere le cose che ci capitano nella vita. Sempre commovente, pinguino aquila, grazie. Anche i pinguini volano, ma passiamo alla voce che è in console in questo momento, al nostro Beppi. Beppi. Sì, allora, questa puntata è stata molto interessante perché mi ha anche permesso di fare un sacco di pratica con i volumi e lo streaming della musica live, quindi voglio ringraziare tutti i musicisti e ok, sì, poi belli contenuti, vi ho già detto tante cose, dai. Il Beppi non si scompone, ma c'ha la lacrimuccia, la vedo, lo vediamo da qui, una delle puntate più belle che abbiamo fatto, Fioi, bellissimo. Via, ma gringo e camicia, diteci la vostra. Ah, noi... Che dire? Good vibration. Good vibes. Da, scusate, ognuno per sé non vale, in coppia. Cioè, vogliamo le impressioni di ognuno... prima gringo e poi camicia, dai. Vogliamo le impressioni vere. Prima gringo, eccolo qua. E non ha per niente gringo. Veramente positive e... Veramente non mi aspettavo una diretta finale così bella e partecipata, è densa, proprio densa. E veramente sono soddisfatto. E dopo la dama posso dire di essere soddisfatto, diciamo, un gradino sotto. E grazie a tutti, grazie a tutti. Anche sopra, se vuoi. Uguale. La dama. Ah, va bene, giusto. Sì, esatto. La dama è la dama del castello. Gringo e camicia sono i due vassalli. Mi piace, va bene. O a volte anche quelli che stanno al cancello, che si abbassa, che stanno lì a controllare che non entrino, che entrino le persone giuste al castello. Fosse veramente così, sarei molto felice per tutta la vita. Io ringrazio veramente tutte quante. Ho un nuovo obiettivo ormai, fare solo puntate così. Cioè, il mio obiettivo da settembre sarà... Cioè, farle solo così, non posso più adesso fare a meno di tornare indietro. È come quando scopri il cioccolato con l'arancia e il ginger, non puoi più tornare alla cioccolata. È come quando scopri la figa. Camicia, ma devo dire che visto che dipende da te e dai tuoi millanta amici musici e tutto ciò, e viva la figa, si può dire, no? Ma visto che dipende da te, da tutti i tuoi miliardi di amici musici, la buona riuscita, oltre che dai nostri piccoli contatti di me e gringo tramite Fritto e l'altro, noi confidiamo che se tutti attivi, noi la disponibilità la mettiamo. Assolutamente, sai che non è difficile che non sia attivo, però ti posso dire che in effetti finalmente la radio... fatta così è quella che ho sempre desiderato, cioè quella in cui la musica va proprio da collante. Wow! E, essendo anche un musicista, in questi 2 anni di Radio Contado eccetera, i temi politici, le telefonate sono state super belle, emozionanti. Ora si apre una nuova era, che è quella in cui finalmente la musica diventa una parte davvero più che integrante, diventa quasi un sottotema che unisce tutto e tutte e tutti, quindi da oggi si cumbia. Allora, allora posso gorgogliarmi, come si dice, gongolarmi in un moto d'orgoglio, perché invidiosa di una volta che mi raccontarono da Frittole ci fu una musica live di sottofondo per tutta la puntata, ho strarotto i coglioni a tutti per venire qua stasera e fare questa diretta, quindi mi sento vincitrice in questa cosa per la prima volta nella mia vita. Grazie a tutti per aver accettato l'invito. Ma ti abbiamo accontentato con gioia. Allora, io volevo dire solo pochissime cose. Prima di tutto, che meglio il cicaliccio del traliccio, che insomma, secondo me, racchiude l'essenza di partire da Radio Contado e arrivare fino al castello e chiudere qua la stagione. Ma così, ispirata un po' dalle parole del Camicia, a cui sono debitrice, penso che ci dobbiamo sempre ricordare che non c'è etica senza estetica, E quindi se arriviamo al sonoro e al musicale è perché partiamo da dei contenuti. E il fonema è significante. Sta delirando nello svarione di Lady Liviet, che mi è molto consono. E da settembre sarò la camicia, non il camicia. Molto bene. E quindi io vi aspetto per nuovissime puntate di Funambole, spazio al femminile. E ringrazio ognuna, ognuna, ognunu, perché la lotta è fica. E quindi non possiamo non dimenticarci che noi siamo tutte e tutti nati dalla vagina. Poi di questa cosa della U alla fine poi di questa cosa della U alla fine bisogna parlarne, non appunto. L'ho spiegato dentro Funambole, ecco, la U non è un dialetto sardo, ma è perché noi facciamo un lavoro sul linguaggio e tutto vuol dire che comprende tutto soggettivitù antipatriarcalu, e quindi in realtà quando diciamo ciao a tutto vuol dire che diciamo ciao a tutte, tutti e tutte le società. Lo so, però ma è brutto, è comprensibile, è quindi brutto. In realtà però non è ci un vuole estetica sacro. Hai detto ci vuole estetica, è brutto alla fine con la U, e poi allora dico a tutta ieie. Come fai? Mettiamo a ieie alla fine di ogni cos'è parola. Cos'è che è brutto o bello? Le persone... Cos'è che è brutto o bello? La U alla cos'è fine. Cos'è che è normale? Non è perché la U non ti è piace? Brutto. A parte che è comunque un vocale maschile. Buio. È un vocale maschile. Il buio. Bene ragazzi, io lo so, da esterna lo posso dire. Siamo in Toscana e soprattutto in provincia di Firenze, quindi la polemica. Ah, polemica, sì, infatti. È all'ordine del giorno e non si può finire una puntata se non con l'estetica è etica, non c'è etica senza estetica, ricordatevelo. Comunque, se questo argomento vi aggrada, vi proporremo una prossima puntata della stagione a parlare della U o non U. Comunque. E la metteremo ai voti e vorremmo sentire il parere di voi radioascoltatori. Mamma volevo mandare un po' di baci da Lady Liviet per tutte. Mamma Wombat è un grande contenitore, avrà spazio anche per voi. Ora lasciatesi il castello a prendere sopravvento per la fine della puntata. Difendiamo il castello. Ah, volevo fare un ricordo. Volevo ricordare che qui ci sono delle assenze, quindi volevo mandare un grande saluto a Drio che non c'è e a tutti coloro che hanno fatto parte della mitica costruzione di Contado, Frittole e compagnia cantanti, luoghi veramente romantici dove innamorarsi di Radio Wombat. E ora vi lasciamo con un'altra musica live, con alla voce la nostra Vani e gli strumenti, tutti quelli che voi avete sentito finora, Reverendo, Palmiro Corretti vari da tutti noi. Buon ascolto, ciao, grazie. Vai, prendi pure il microfono. È una canzone molto adatta a tutti noi, per cui va benissimo. Io sono pazzo e voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia. Io sono pazzo e chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello. E non sono meno amato, sono pure diplomato e la faccia nera l'ho dipinta per essere lodato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazzo, e adesso voglio parlare. Io sono pazzo, si sento sta nervatura, metto tutto in faccia muro. Io sono pazzo. E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello? E non sono meno matto, sono pure diplomato e la faccia nera l'ho dipinta per essere lodato. E Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. E io sono pazza. Non c'è scassa. tu cazza. Ti sento sta nervatura, metto tutto in faccia amore, so pazza, io so pazza. C'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta, non mi date sempre ragione, lo so che sono un errore. Non mi date sempre ragione perché so che sono un ci devi scassare un gatto, perché sono pazza. Non ci devi scassare un gatto perché sono pazza. Sono pazza proprio.